Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buongiorno e benvenuti a Mr. Kilowatt. Oggi è stato presentato il Biomass Energy Report a cura dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano e quindi è tornato a trovarci Vittorio Chiesa, che lo dirige, questo gruppo specializzato appunto sulle analisi di quanto accade nel settore delle rinnovabili italiane, ed è tornato per fare il punto sull'uso delle biomasse e sui possibili anche sviluppi di questo settore nel nostro paese. Buonasera Chiesa. Buonasera. Allora, stiamo parlando di biomassa, parliamo di agroenergie. Insomma, iniziamo direi da un rapidissimo quadro. Quando si parla di produrre energia da biomassa si fa riferimento a un panorama abbastanza vario. Che cosa quindi ricade all'interno di questa categoria? Sostanzialmente abbiamo le biomasse agroforestali, quindi quelle biomasse che derivano da scarti legnosi agricoli della lavorazione del legno, il gas combustibile, il cosiddetto biogas, che nasce dalle discariche, dai reflui animali, da scarti zootecnici, da un altro lato, i rifiuti solidi urbani, che apparirà strano, ma anche il sistema di incentivazione prevede che abbiano una frazione rinnovabile del 51%, quindi sono ascrivibili tra le biomasse, e poi i biocarburanti. Quindi insomma i tre stati della materia, solido, liquido e gassoso. Ecco, rispetto a questi settori, come siamo messi a livello di competenze nel nostro paese? Perché noi siamo dei grandi importatori di rinnovabili dall'estero, insomma. In generale, diciamo, si pone il problema in alcune filiere delle rinnovabili di una dipendenza tecnologica. In questo caso direi è molto più limitata, forse perché le tecnologie sono più consolidate e mature, a parte qualche caso specifico, in particolare il biogas o qualche componente particolare, diciamo che c'è una presenza di imprese italiane rilevanti e quindi la ricaduta degli investimenti che vengono fatti di fatto sono ampiamente ritorni nel nostro paese. Dei tre settori qual è quello più forte in questo momento, quello più sviluppato? Ma in termini di contributo al fabbisogno di energia primaria italiano probabilmente sono le biomasse agroforestali. Che coprono quasi il 3%, il 2,7%, se sommiamo le altre arriviamo al 3,5% del fabbisogno di energia primaria, e questo mi porta a dire appunto che è un contributo in termini di peso alla produzione di energia che è già significativo, certo, sul bilancio energetico complessivo. D'accordo. Ecco, il modello produttivo qual è nel nostro paese? Di solito, diciamo, la regola è che prevalgano i piccoli impianti. Sì, assolutamente sì. In generale la taglia degli impianti è abbastanza limitata se comparata con gli altri paesi. Le ragioni fondamentalmente sono due. Uno, il sistema di incentivazione, che in qualche misura spesso è più favorevole se la taglia è piccola, e il fatto che i certificati verdi che si applicano agli impianti di taglia più grande di solito hanno un certo grado di incertezza per quello che riguarda il loro futuro, e quindi negli ultimi anni di fatto si è fatto poco in questo senso. In ogni caso, in tutti i casi, chiedo scusa, quello che viene incentivata è la produzione di energia elettrica? Di energia elettrica, sempre. E qui tocchiamo questo, infatti, un altro punto importante, cioè in altri paesi sono previsti dei bonus per la cogenerazione, perché questi sono tutti impianti che possono, certo, produrre anche energia termica, che da noi però, diciamo, di fatto non è incentivata affatto. Sì. E questo forse pone un po' un limite, perché altri paesi vedono svilupparsi impianti di taglia maggiore anche perché è previsto un contributo alla produzione di energia termica. Diciamo che c'è un generico problema sugli usi termici delle rinnovabili nel nostro paese, che sono praticamente disconosciuti. Ecco, questa taglia piccola degli impianti è problematica o semplicemente, insomma, vabbè, conviene farli piccoli perché sono più remunerativi e tanti saluti, o invece si paga un prezzo? Beh, sono più remunerativi, diciamo, per chi li fa, perché appunto in alcuni casi il sistema di incentivazione è premiante, diciamo che in sé spesso non sono impianti particolarmente efficienti. In questo scontiamo il fatto che, diciamo, proprio anche trasversalmente rispetto alle tipologie di materia prima necessaria, quindi quelle tipologie di scarto, rifiuti di cui parlavo prima, che vanno ad alimentare questi impianti, è chiaro che la taglia grande di impianto impone delle organizzazioni alle spalle che si preoccupino di un approvvigionamento costante e continuo di questi impianti, e questo necessariamente passa attraverso o meccanismi di raccolta organizzati piuttosto che accordi consortili tra parti, vengo per esempio al mondo degli allevatori e degli agricoltori, certo. Se volessimo fare un biogas agricolo di taglia più ampia, che classicamente nel nostro paese non sono come dire accordi facili da raggiungere. Per ragioni tutte psicologiche, peraltro, mi sembra di capire. Ragioni psicologiche, sì, sono quelle classiche barriere che un po' tipiche del nostro paese che ci portano con grande difficoltà a collaborare. Ecco, insomma, quindi lanciamo un messaggio, mettetevi insieme agricoltori, lavorate insieme per un obiettivo comune. Qual è il potenziale, indicativamente, insomma, delle agroenergie in Italia? E poi le chiedo anche se ci sono alcune tra le varie agroenergie sulle quali il nostro paese dovrebbe puntare, magari anche a discapito di altre. Ma diciamo, dalle nostre stime abbiamo una situazione abbastanza uniforme, quindi diciamo abbiamo stimato che ci sia un gigawatt di installazioni potenziali sia in campo di biomassa agro che di biogas che da rifiuti. Per esempio in quest'ultimo caso solo l'allineamento alla media europea ci imporrebbe questo tipo di installazioni in un arco di anni non lungo. Cioè noi mandiamo ancora troppa roba in discarica, insomma. Mandiamo ancora troppa roba in discarica, il 53%, che comunque rimane troppo alto. E quindi questi 3 gigawatt, pensando che poi sono impianti che funzionano molte migliaia di ore all'anno, 6-7 mila, potrebbero evidentemente dare un contributo importante alla copertura del fabbisogno di energia del paese. Va bene, grazie Chiesa. Grazie a voi, buona serata. Buonasera anche a tutti voi ascoltatori, domani parliamo di come fare innovazione nel settore delle tecnologie rinnovabili e dell'efficienza energetica.